Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Il referendum ha questo di buono: che si capisce chi ha vinto e chi ha perso, perché naturalmente se c'è l'astensione, se il quorum non viene attinto, allora vuol dire che il referendum, diciamo, è stato bocciato dagli elettori, diciamo, subisce il loro disinteresse attivo, perché loro non vanno, o passivo, come preferite. E quindi invece le elezioni, i ballottaggi, discuteremo anche di questo stamattina. Le elezioni, soprattutto i ballottaggi, quando vota il 40%, ma lì non c'è il quorum degli italiani. Poi dopo succedono cose tipo, non so, che a Prao, la città di Benigni, vince il centrodestra. A Milano il centrosinistra perde. Sì, Penati ha perso, ma per una manciata di voti. In realtà è stata una performance al galoppo. Poi il centrosinistra tiene a Padova, tutti i granddottori padovani hanno tutti firmato una cambiale per Zanonato, un sindaco fantastico, anche lui come Penati, diciamo, un sindaco di sinistra che fa politiche di sicurezza cospicue, robuste, non le definirò di destra perché non voglio dare scandalo. E poi nei ballottaggi succede di tutto: a Venezia la Lega trionfa e prende la provincia, nella città dove il capoluogo è governato dal più sofisticato filosofo nichilista, che detta i suoi pensieri dallo Steinhoff, Massimo Cacciari, quindi, muro a muro con la Lega adesso sta lì a Venezia. Sono cose, è una geografia politica che consente di dire qualunque cosa. Per esempio, si può proclamare: la sinistra ha vinto a Bologna e a Firenze, però insomma, questa è una cosa che succede, salvo rarissime eccezioni, da parecchi anni, ed è abbastanza da computare, diciamo, nei fatti di ordinaria e normale amministrazione. Quindi è molto difficile dare un giudizio finale, un giudizio che abbia un sapore politico veritiero, autentico, però noi proveremo comunque a girare intorno a queste cifre, a questi risultati elettorali, e a tirare fuori un po' di sugo, il che non dovrebbe essere impossibile, e anche a cercare di capire, insomma, questo diritto politico che è il referendum, mal regolato dicono tutti, perché è solo abrogativo, il che naturalmente comporta molti vizi, molti difetti, mal regolato perché appunto c'è questa questione del quorum, che da un lato si capisce perché c'è, perché per abrogare una legge che è stata voluta dalla maggioranza degli italiani attraverso la mediazione dei loro, della maggioranza parlamentare eletta, ci vuole una effettiva maggioranza riscontrabile con un quorum. Però insomma, il quorum è anche debilitante per i referendum, dopo tanti anni, dopo tanti referendum, in un paese così affollato di scadenze e date elettorali. E insomma, cerchiamo di capire quello che è successo domenica e lunedì pomeriggio, senza illusioni, ma con l'idea di poter tirare fuori qualcosa di almeno di sensato. E cerchiamo di farlo con Maria Teresa Meli del Corriere della Sera, con Laura Cesaretti del Giornale, con Francesco Cundari del Foglio e Stefano Folli, che è il nostro conosciuto e frequente ospite, notista politico, principe del Sole 24 Ore. Bene, incuranti della crisi della borsa, i miei ospiti si tirano delle pallette di carta, ma insomma, adesso però cominciamo a lavorare seriamente a beneficio della comprensione di ciò che è successo. Il referendum, Folli, vogliamo dire qualcosa di radicale, di definitivo su questi referendum? Perché naturalmente tutti pensiamo che è giusto che si possa esercitare il diritto politico referendario senza essere insidiati, molestati, diciamo, dallo spirito antireferendario, lo sputacchio su quei poveretti che poi raccolgono delle firme, cercano di modificare una legge abrogandone delle parti e fanno delle, insomma, la Repubblica è nata con un referendum. Certo. Appunto. Quindi no. Però d'altra parte è anche vero che sembra proprio una cerimonia. Sì, adesso è una cerimonia un po' rituale, francamente un po' consunto. Poi naturalmente si può rimpallare le responsabilità, no? È chiaro, in queste cose non c'è mai un solo responsabile. Quando le cose vanno così male è chiaro che è evidente che se il referendum fosse stato stabilito non il 21 giugno ma un'altra data, forse le cose potevano andare anche un po' meglio, però anche questa idea, lo dico con molta simpatia per i promotori del referendum che mi fanno una istintiva simpatia, però l'idea che ci debba essere un traino di altre elezioni, no? Tipo elezioni europee o altro, per sperare di raggiungere il quorum, anche questa è un'idea discutibile, nel senso che il referendum dovrebbe avere una sua forza. Quindi c'è qualcosa di sbagliato in questo meccanismo, evidentemente, e forse occorrerebbe davvero una riforma che determinasse alcuni correttivi importanti per non perdere un istituto di democrazia che è importantissimo. Vogliamo dire una cosa, adesso estendo anche agli altri ospiti la domanda, non è per fare il solito gioco autolesionistico di parlare male del carattere degli italiani, cioè di noi stessi, però insomma i principi contano poco, le convenienze contano molto. Questo referendum sembra la didascalia sull'affermazione che ho appena fatto, perché insomma lo hanno richiesto a destra e poi hanno deciso di non fare campagna perché la Lega ha detto no, se no vi metto in crisi la coalizione. Lo hanno richiesto a sinistra, nel centro-sinistra, e poi hanno deciso sostanzialmente di non fare campagna, un po' per lo stesso motivo, per le proteste di Di Pietro, ma soprattutto perché a questo punto il referendum, visto come sono andate le elezioni politiche scorse, diventerebbe un premio per la pretesa eventuale di un Berlusconi di vincere da solo. E quindi le convenienze contano. I principi, che sono il bipartitismo, un bipolarismo compiuto, non contano. È vero, Kundari, che i principi non contano, le convenienze sole contano? No, non lo credo, e soprattutto non credo che si possa mettere nel campo dei principi la legge elettorale, il meccanismo di ripartizione dei seggi, diciamo. Questo io credo che sia uno dei delle principali deformazioni di questi ultimi anni, che si sia inserito, diciamo, tra i valori non negoziabili, appunto, se c'è la quota proporzionale o meno, è una, secondo me, una deformazione della politica. Su questo lei ha ragione, però il passaggio, diciamo, dal firmare per un referendum al guardarsi intorno e al decidere che non si fa più campagna per questo referendum perché un anno dopo non conviene più, quello, ma, insomma, ripeto, un certo senso di opportunistica, no? Ma adesso in politica tendenza. Quante volte su quante questioni di ben maggiore rilevanza per il paese, ora se uno cambia idea sul sistema elettorale migliore, diciamo, di tutte le contraddizioni che si possono trovare volendo nella politica mondiale e dei cambi di posizione, questo io non lo metterei certamente tra i più gravi. D'altra parte la cosa che a me secca, e diciamo questo lo dico sapendo di trovare sicuramente, diciamo, solidale adesione in lei, è che è passato il principio per cui l'astensione è qualcosa di sconveniente al referendum, che non si può fare. Quindi, mentre, diciamo, bisognerebbe secondo me valutare semplicemente il fatto che questo singolo referendum è fallito. Capita, in politica si vince e si perde, in questo caso i promotori hanno perso. Perché bisogna dire allora che non va bene lo strumento, che è una macchia nella coscienza civile del paese? Questo paese non, no, questo certo è non perde mai, no, ma adesso anche macchia non no, esagerando, comunque voglio dire, le partite si fanno perché ogni tanto si vincono, ogni tanto si perdono, non è che bisogna, certo, far saltare il campionato. C'è qualche idea su come cambiare le cose attraverso magari un cambiamento delle regole? Non so, Maroni ha accennato, il ministro dell'interno ha accennato al fatto di cambiare qualcosa, poi non credo che cambierà nulla, ma insomma, Meli. L'idea sì, cioè l'idea di aumentare il numero delle firme, che francamente è poco, sono 500.000 firme, cioè di portarla a un 2 milioni e di abolire il quorum o ridurre il quorum. 2 milioni è tosta, eh? È tosta, però. Ma è molto tosta, cioè si fanno più i referendum, salvo che non convocati da grandi organizzazioni. Però in cambio non c'è più il quorum. In cambio non c'è non più, c'è quorum, più il quorum, questo sarebbe è un trade-off. E anche la Cesaretti pensa questo, che è una buona cosa. 2 milioni, parecchio, Cesaretti ha avuto una militanza radicale lì con i tavolini per... era dura, sì. Però il quorum è anche vero che esiste solo in Italia, e ci sono altri paesi di grande democrazia, dagli Stati Uniti alla Svizzera, che abbinano peraltro alle elezioni di grande richiamo, tipo le presidenziali in America, una raffica di referendum che poi sono statali, che poi sono non abrogativi, sono diversi dal nostro, ma sono referendum in cui si chiede ai cittadini di dire sì o no a una proposta, non necessariamente a grandi principi. La gente ci va, non c'è il quorum, e la seconda scheda che la Costituzione italiana offre agli italiani, che è quella referendaria, viene lì utilizzata effettivamente. Io credo che sarebbe da fare anche qui, insomma. Va bene, comunque ci teniamo la porcata, che ha funzionato benissimo, come sappiamo, perché abbiamo una maggioranza molto forte, che, e quindi una forte stabilità di governo, e potremmo averla di segno contrario, dipende da come votano gli italiani. Le leggi elettorali sono belle, ma poi dipende da come votano i cittadini, chi va al governo e chi va all'opposizione. Questo risultato, chiede Paolo da Macerata, può essere, ed è la domanda di moda in questo momento, l'inizio del declino di Berlusconi? Paolo. Sì, buongiorno Ferrara. Io spero. Ma come che le viene in mente? Perché sui giornali questa domanda circola, però adesso Berlusconi potrebbe declinare per mille e uno motivi, ma non per il fatto di essersi ripreso la provincia di Milano, di avere la provincia di Venezia. Poi ho visto dei conti sul giornale, insomma, proprio non c'è partita, cioè... Ecco, cioè, insomma, e il centro del PDL ha preso un sacco di roba, ecco, che prima aveva l'attuale opposizione. Che vuole che dica? È un'impressione, cioè, come si dice, una sì, no? Sensazione a pelle? Nel senso a pelle. Che, ecco, io ho sempre votato centro-sinistra. Le ultime elezioni, ahimè, me ne dolgo pesantemente, ho votato centrodestra. Mia colpa. Credo che sia una sensazione positiva quella che sento io, cioè che ci sia un'inversione di tendenza, un girare la boa, perché l'italiano... Ma perché aveva votato a destra le ultime elezioni, se dovessi riassumere in una? Ferrara, se dovessi riassumere in un... Per salvare l'Italia? In 20 secondi no, senz'altro no. Ho votato a centrodestra pentendomi amaramente, perché ho pensato che il centro-sinistra con l'ultima scelta avesse fatto la più grossa cazzata del mondo. Magari adesso, oggi, già la vedrei con un occhio diverso, cioè voglio rivalutarlo Veltroni, ma allora mi è sembrato molto critico. Comunque, per concludere, la sensazione è questa: l'italiano, che è il popolo più masochista al mondo, ovviamente lo sappiamo, però questo fatto delle veline, mignottine, mignottone non l'ha sopportato, secondo me, e quindi... Ho capito. ci sarà secondo un lei c'è una grande rivolta savonaroliana, eccetera. No, però un piano pagare prezzo, vedrà che il pegno sarà pagato piano piano, perché è vero, gli italiani sono molto rigorosi sul sesso, penso che veramente su questa cosa sono come gli svedesi, come i puritani, i luterani, ma non credo, Paolo, non si faccia illusioni, che poi dopo le illusioni vengono le delusioni. Comunque, lasciamo perdere adesso il sesso e torniamo a questa questione. Declino di Berlusconi, Meli. Declino di Berlusconi, io francamente l'ho sentito dire solo a Dario Franceschini ieri sera, mi è sembrata un'ottima mossa mediatica, fatto benissimo il centro-sinistra, che è andato male in queste elezioni, a dire una cosa del genere, e aiutato anche, diciamo, da una deficienza di comunicazione da parte del centrodestra, perché il centrodestra, invece di dire abbiamo vinto a Milano, abbiamo espugnato Prato, eccetera eccetera, si è presentata con Denis Verdini dicendo non bisogna più fare i ballottaggi, il secondo turno va male, quindi dando l'impressione di essere effettivamente andato male. A conti fatti non è affatto andato male, ed è curioso che in un momento ho capito, il mio amico Denis Verdini ha chiesto l'abolizione delle elezioni. Ha chiesto l'abolizione del ballottaggio, del secondo turno, quindi dando l'impressione che il centrodestra fosse andato malissimo. Così non è stato, ed è, diciamo, un... Ma poi come a Prato, lui è di Campi Bisenzio, lì Prato è il vincitore. E non so che dire, però è una cosa su cui... Ha chiesto l'abolizione delle elezioni. L'abolizione. Certo, l'Italia è diventata... Poi ha fatto i conti. Poi ha fatto i conti e si è corretto. Ma la prima dichiarazione del centrodestra è stata questa, che non ha aiutato l'immagine del centrodestra. Tant'è che poi è dovuto intervenire Berlusconi facendo i conti, dicendo quanto avevano vinto, dove Berlusconi avevano vinto. Berlusconi è molto preciso, sì, esatto, con grande precisione. Però insomma, è curioso che nel momento di massima difficoltà del governo, appunto con veline, signorine, con una crisi economica tremenda, il centrosinistra non riesca a vincere, ma anzi continui il suo arretramento. E, per cui sinceramente il declino di Berlusconi ci sarà, ma in queste elezioni io non lo vedo. Veline signorine, non avete sentito l'editoriale di Minzolini di ieri al TG1? Non si deve parlare di queste cose, perché non c'è la notizia criminis, sicura, riscontrabile. Basta di parlare di veline signorine. Giusto, Cesaretti? Giustissimo. Finalmente qualcuno che dà ragione a Minzolini. Va bene, andiamo avanti. Prato, che fenomeno è? Perché lì ci sono molti immigrati, no? Ci sono delle macchine, delle 500, che ospitano da 7 a 8 cinesi che girano per la città. E poi c'è una grande, fervorosa, attività anti-immigrati, perché subiscono, in realtà subiscono, sono la struttura portante dell'economia del pratese, no? Oggi gli immigrati. Però i cittadini la subiscono come un'invasione di campo. Che tipo di fenomeno può essersi prodotto? Perché Prato è veramente una città di tradizioni di sinistra, insomma, ecco, il fatto che ci sia stato questo rovesciamento e che sia legato all'immigrazione, che sia legato a una campagna prevalentemente leghista, è abbastanza significativo. Se pensate anche ai risultati di Sassuolo, di certe zone dell'Emilia, questa penetrazione a macchia di leopardo di temi leghisti folli. So che Prato dimostra come la Lega stia uscendo dai suoi territori tradizionali. Lì ha vinto più che un personaggio, ha vinto davvero una soluzione, no? L'idea che la Lega abbia delle ricette, la Lega che ispira poi, diciamo, l'intera coalizione di centrodestra, abbia delle ricette per tenere a bada questi problemi, che sono i problemi dell'immigrazione, però accentuati, inaspriti dal fatto che lì, essendo un tessuto industriale, risente anche della crisi economica in questo momento, pesantemente. Quindi le due cose insieme producono un disagio, un malessere, e questo è significativo perché dimostra come in realtà queste elezioni confermano una certa capacità del centrodestra di creare una rete territoriale che si estende al di fuori del Lombardo-Veneto. Ci sono anche altre zone, no? Ascoli, Frosinone, insomma, posti medi o medio piccoli dove il centrodestra vince, e questo pone un importante, lo pone, dicevamo prima, dove invece il centrodestra è stato estremamente, come a Milano, Penati, Zandonato si sono mossi su posizioni che non sono le posizioni tradizionali del Partito Democratico. Ecco, su questo volevo, Folli, introdurre un altro elemento. Sergio Chiamparino, in un'intervista al quotidiano Il Riformista, propone il rinvio del congresso del PD. Beh, sembrerebbe un tema molto interno, molto tutto politico, tutto d'apparato, eccetera. In realtà non so che logica c'è, perché Chiamparino, insieme con Zanonato, con Penati e con pochi altri, fa parte di questo Partito Democratico del Nord, no, che si è reso conto della difficoltà, dei problemi. Chiederei a Kundari cosa può significare questa cosa. Ma innanzitutto non ho capito con quale argomento, però, perché non ho visto questa intervista, se come immagino, diciamo, la... Rinviare tutto a dopo le regionali del 2010. Ma questo è già stato, questa è una cosa che circola da tempo. Un'altra versione, che forse non si può dire apertamente, ma che forse è più forte come argomento interno, è: di fronte alla crisi del governo imminente, di fronte alle scosse in arrivo, eccetera, dobbiamo essere pronti, eccetera, eccetera. A me sembra, diciamo, piuttosto debole come posizione, salvo appunto cataclismi. Non vedo come si possa giustificare il rinvio di un congresso perché poi dopo, un anno dopo, ci sono le elezioni. Non mi sembra un argomento, anche perché poi ci saranno sempre delle elezioni che vengono dopo. Oltretutto parliamo di elezioni, cioè, regionali. Verdini vuole abolire le elezioni e Chiamparino il congresso. Questo mi sembra un segno dei tempi. Sì, di solito, diciamo, non sono quelli che sentono il vento in poppa a fare queste proposte. Meli, lei che pensa di questo fatto? Del rinvio del congresso? Io penso che ci sia una parte del partito che lo pensa per un banalissimo motivo, perché ritiene che sia Bersani che Franceschini siano impari al ruolo, allo sforzo, al compito che gli spetta. Ritengono che né l'uno né l'altro siano in grado di gestire veramente una ripresa del PD. Andare a un congresso e fare un segretario a ottobre significa che poi quel segretario te lo tieni per sempre. Invece il rinvio significa nel frattempo cercare per un anno un altro personaggio, un'altra politica, darsi il tempo per affrontare, per vedere qualcosa di nuovo. E questo penso che lo credano in molti. Io credo che non lo direbbe mai, anzi affermerebbe il contrario, ma uno di quelli che lo pensa si chiama Massimo D'Alema. Ah, quindi diciamo la proposta avrebbe ispiratori e padri segreti. Cesaretti, lei pensa questo? Penso di sì, penso anche che Massimo D'Alema pensi altresì di essere l'unico che potrebbe gestire il PD in tempi così difficili, e penso che lui creda veramente che ci possa essere una scossa più seria al sistema berlusconiano, e che in quel caso si aprirebbe uno scenario completamente diverso, uno scenario molto più di palazzo, molto più di intrighi e di quindi meno chiacchiere, rapporti. Meno democrazia, meno congressi e più manovre di palazzo, manovre di palazzo, perché palazzo il in momento cui è sicuramente sarebbe quello che dà questa le carte. Questa è un'interpretazione quella, naturalmente, non un comunicato di D'Alema, no, perché una mia interpretazione ovviamente. Sì. Bene. Sentiamo Giulio da Verona. Sì, buongiorno lei. Buongiorno. Io sentivo prima l'intervento di un ascoltatore, Paolo, diceva che gli italiani sono molto sensibili al tema veline o quant'altro. Allora, intanto vorrei dire al signor Paolo di parlare per lui. Ognuno credo che esprima le proprie opinioni. Io parlo e tanti amici, parlando ieri sera a una grande tavolata, si ragionava, si diceva i problemi di Berlusconi personali, sessuali o quant'altro, per quanto riguarda, credo, la maggior parte delle persone, interessa poco. Anzi, sinceramente ho piacere per lui se si diverte, perché vuol dire che anche oltre 70 anni è bello vedere una persona che privatamente si diverte. Noi lo giudichiamo di più sui fatti reali, sui problemi veri che l'Italia deve affrontare. Credo che molti italiani siano su questa linea, non tanto sui problemi che strumentalmente vengono agitati dalla sinistra quando a loro conviene. Beh, il suo giudizio è molto netto e molto chiaro. Certo, è un tema politico, Folli. Cioè, noi non possiamo ignorare, anche perché non siamo il TG1, quindi possiamo non ignorare quello che sta succedendo da circa 3 mesi. E cioè, una campagna vastissima, poi con propaggini internazionali, che tende a offendere, a diminuire, a corrodere la reputazione del capo del governo. Questo non può non essere considerato un fatto che ha diciamo riflessi politici. Però con grande nettezza questo ascoltatore da Verona dice: ma cosa ce ne importa a noi di quello che fa sotto le lenzuola Silvio Berlusconi, dei suoi fatti privati? No, non vorrei. Noi abbiamo avuto da parte del gruppo Espresso Repubblica e di quel tipo di sinistra, diciamo, che tira la carretta in questa campagna, una lunghissima, ultradecennale campagna, per esempio, sul conflitto di interessi. Alla fine l'hanno mollata. Berlusconi questa campagna l'ha gestita così come ha fatto lui, prima negando, poi ammettendo, poi facendo una legge parziale sul conflitto di interessi, eccetera, eccetera. Ma insomma, era una campagna che veramente non muoveva le coscienze pubbliche nazionali e non incideva, e ha fatto molto male alla sinistra, devo dire. Ha fatto bene a Repubblica, a tutta un'elita, una classe dirigente che attraverso questa polemica sul conflitto di interessi si è confermata lungimirante, alta, di grande profilo internazionale. Anche lì l'Economist: Berlusconi è inadatto a governare l'Italia, e c'è questo 2 vittorie fa. Allora il punto qual è? Il punto è, non è che ci troviamo di fronte un'altra volta a una campagna priva di radici nel popolo e che quindi è destinata a morire e a fare anzi danni a chi... Ho qualche dubbio su questo, francamente. Io penso che è vero che c'è un'ampia fascia di opinione pubblica che si disinteressa di questi aspetti, però c'è anche il senso generale che una vicenda di questo genere, protratta nel tempo, produce un certo logoramento dell'immagine del Premier sul piano interno, sul piano internazionale, non si può sminuire, e crea quello che lei, Ferrara, giorni fa sul Foglio descriveva in maniera molto efficace, come l'idea che siamo alla perenne vigilia della fine di una stagione politica, e questo naturalmente determina un senso così di un po' di smarrimento, un po' di stagnazione nell'azione di governo, l'idea che, diciamo, ci sia al vertice un personaggio comunque indebolito dalla da questo lavoro ai fianchi. Questo è uno scenario, direi, molto verosimile, quindi non è vero che non ci sia un effetto di questa campagna che è più insidiosa di quella relativa al conflitto di interessi, e per esempio lo dimostra il fatto che c'è una parte di elettorato, quello più cattolico, no? Quello più legato a certi temi etici, che è rimasta molto disorientata in questa vicenda, quindi questo determina un fatto nuovo. Ma questo elettorato nuovo... cattolico io lo vedo e non lo vedo, perché alle ultime elezioni politiche ho presentato una lista contro l'aborto. Berlusconi ha detto io sono per l'anarchia etica, mi pare che ha preso più voti Berlusconi di me, o sbaglio? Sì, questo è vero. Ha preso più voti, mi ricordo, Berlusconi, decisamente Berlusconi. Questo è vero. Cioè, lo vedo o non lo vedo questo elettorato cattolico? Non so, si è un po' dissolto. Comunque, sulla questione posta dall'ascoltatore di Verona, invece, è interessante sentire i nostri ospiti. Kundari, l'ipotesi era chiara. Lui dice, non ce ne importa niente. E io ho commentato, vabbè, qui magari siamo come per il conflitto di interessi di fronte a un'altra campagna che può durare a lungo, ma non produrre danni se non a chi la fa. No, io non credo. Premesso che non è una campagna che a me non piace, e che ha molti, che fa parte, diciamo, ormai di un modo di fare giornalismo, politica, che da 15 anni abbiamo conosciuto, insomma, fa parte tutta una retorica, un modo di fare giornalismo che a me non piace. Tuttavia, devo ammettere, sia pure, diciamo, non malvolentieri, che in questo caso non siamo di fronte a puro e semplice gossip. Siamo di fronte ad alcuni fatti che hanno un oggettivo rilievo pubblico, cioè non stiamo parlando di quello che il Presidente del Consiglio, del fatto che il Presidente del Consiglio abbia un amante, per dire. No, non è questo, insomma, adesso senza rifare tutto l'elenco, però parliamo... Alcune centinaia, insomma. No, ma soprattutto le riceve, diciamo, a Palazzo Grazioli, cioè tutta una... Sua. Sì, d'accordo, però, insomma, se adesso, voglio dire, possiamo anche... le cose sono due, o lei c'è davvero dice, secondo questa voi... roba qui può durare e diventare una valanga e travolgere Berlusconi? Io penso che questa valanga crescente che ha al fondo, indipendentemente dal comportamento della stampa, diciamo, ha una causa che è nel comportamento, direi, diciamo, come possiamo dire, troppo disinvolto, sì, sì. Del Presidente del Consiglio, una base oggettiva. Questa campagna, naturalmente, secondo me, è determina una situazione di grave debolezza, di imbarazzo sul piano interno e internazionale, tendenzialmente, temo, destinata a crescere, che obiettivamente la parola importante è questa, destinata a crescere, perché certo l'imbarazzo, certo, è evidente, chi lo negherebbe, chi lo negasse sarebbe un pazzo, ma destinata a crescere, non a decrescere. Destinata a crescere, io direi, per una ragione molto semplice ed elementare, che visti i numeri delle persone coinvolte, di cui già sappiamo, avremo altre rivelazioni. È ovvio che si apre un mercato anche di dubbia, poi difficile da verificare poi quanto, perché ovviamente si aggiungeranno a questi millantatori, cioè personaggi che cercheranno di inserirsi. Mi interessa sapere il parere della Meli su questo. Il mio parere è che una campagna poco azzeccata, nel senso, l'avevano azzeccata quando hanno cominciato a parlare dei voli di Stato, delle signorine trasportate con voli di Stato, perché quello effettivamente la gente dà fastidio, la gente che paga, sente il contribuente, dice guarda, con i soldi miei vanno in giro veline, eccetera eccetera, e quello effettivamente era una cosa che poteva interessare gli italiani. La invece l'hanno presa da un punto di vista che fa abbastanza risibile, cioè la ricattabilità del Presidente del Consiglio. Abbiamo scoperto che il Presidente del Consiglio non è ricattabile, perché ci sono frotte di signorine che vanno dai magistrati, che si fanno intervistare dai giornalisti raccontando, quindi ormai il Presidente del Consiglio non è più ricattabile. Ricattabile è uno che fra l'altro mi pare che il Presidente del Consiglio non abbia poi aiutato la signora, la Patrizia Daddario, a fare per il suo residence, quindi cioè, la ricattabilità l'hanno presa da un punto di vista sbagliato. Se continuassero sull'uso dei soldi pubblici che viene fatto appunto per le feste a Villa Certosa, allora probabilmente toccherebbero un punto che agli italiani interessa maggiormente. Ho capito, ma lì c'è già l'archiviazione della magistratura sul Stato, almeno la richiesta del PM Cesaretti. Io insisto sul paragone col conflitto di interessi, perché non perché abbiano niente a che fare le due cose, naturalmente il conflitto di interessi è una questione di però sempre si tratta, diciamo, di come dire, di campagne di stampa che hanno un successo smagliante. Cioè, i cazzotti di Repubblica fanno male, producono lividi, creano situazioni di grande imbarazzo per Berlusconi, però poi i voti non fuggono via. Insomma, sì, ci può essere. Per esempio, c'è questo risultato di Napoli, di Bari, chiedo scusa. Bari, che è un po' stato l'epicentro nelle ultime 2 o 3 settimane delle rivelazioni, del pettegolezzo, c'era anche una candidata in una lista pro Simeone a Brescia di Cagno, eccetera, che era proprio la Patrizia Rosario. Ecco, allora Bari è andata molto bene all'opposizione e molto male al candidato di Berlusconi. Può avere un significato questo? Non lo so, non credo. Cioè, lì il PD ha concentrato moltissimo le sue forze, D'Alema in particolare. Emiliano era comunque un sindaco forte. Credo che Di Cagno a Brescia aveva fatto bene ai ballottaggi, poi ha vinto il centro-sinistra. Insomma, non so quanto sia direttamente derivabile da quella vicenda. E sul fatto che il conflitto di interessi è una campagna smagliante che poi non passa nell'opinione pubblica e così, ma credo perché poi la gente che va a votare, che vota tendenzialmente Berlusconi, pensa che sia anche che siano campagne basate più sull'invidia che del potere, dei soldi, del successo che ha avuto Berlusconi per cercare di toglierglieli di mano, che una campagna con dei fondamenti politici. In fondo la gente che vota Berlusconi ha sempre detto: quello non ruba perché i soldi ce li ha, se li ha fatti da soli, no? Che è un concetto. Sì, c'è un atteggiamento molto pragmatico nel giudicare Berlusconi. Che però vale. Sulla questione delle veline non so. Perché anche lì, tutto sommato, poi credo che nell'opinione pubblica, tanto più italiana, il fatto che il maschio di potere abbia una sessualità compulsiva è abbastanza accettato comunemente. D'altronde si è visto ovunque, cioè Kennedy non era meno maniaco sessuale di altri leader che abbiamo visto. Il problema semmai è peccare di ingenuità. Peccare di ingenuità? Peccare di ingenuità e di imprudenza, come sembra aver fatto Berlusconi in alcuni casi aprendo le sue porte. Sì, certo. C'è la questione che poi alla fine... Da un uomo di governo è un po'... Sì, i registratori bisogna tenerli fuori, ecco. Insomma, da casa propria, questo è evidente. Però, insomma, può succedere, come si dice. Marco da Milano. Marco. Pronto, buongiorno. Eccoci. Buongiorno a tutti. Io volevo dire che credo che oramai in Italia le consultazioni avvengono su alcuni temi specifici su cui si concentra l'attenzione dell'elettore. Non c'è una trattazione, cioè la politica italiana da decenni ha disabituato gli elettori ad avere una visione sistemica, ma ad avere una visione puntuale della soluzione dei problemi. La capacità di enfatizzare gli aspetti della sicurezza piuttosto che gli aspetti di un conflitto con la globalizzazione sono il vantaggio permanente della Lega fino a quando la gente non percepirà che bisogna assimilare più che combattere. E questo è una fase del processo di apprendimento dell'elettorato italiano. Quindi lei dice, insomma, questi risultati, soprattutto al nord, continueranno perché la tendenza è del profondo. Ma si espanderanno, perché? Perché anche a Napoli la gente pian piano avrà il problema dei cinesi, il problema dei container, la gestione della logistica. Il problema dei pirati a Posillipo, sì. Ci sono dei pirati che a Napoli, dico, sì, non è facile la situazione della sicurezza a Napoli. I pirati a Posillipo, una cosa un po' curiosa. Vabbè, va bene, grazie Marco, grazie. Bene, andiamo verso la conclusione. C'è un puntino in queste elezioni curioso che va messo bene sotto osservazione. Il caso del sindaco di Firenze Matteo Renzi, molto giovane, 32-33 anni. La Banca Centrale 34, Europea. È stato la Banca Centrale Europea, che non c'entra niente. Matteo Renzi è stato eletto sindaco di Firenze. Giovane, è andato contro, diciamo, l'establishment politico, insomma, era presidente della provincia e dentro gli apparati e gli establishment politici, però si è presentato come candidato outsider, ha vinto le primarie e adesso è sindaco col 60% dei voti. va a pregare sulla tomba di Lapira, è cattolico. Firenze ha una grande tradizione di questo genere, naturalmente, di cattolicesimo attivo, militante in politica. Il cattolicesimo democratico fiorentino è appunto di grande nobiltà. Però la cosa divertente e curiosa di questo Matteo Renzi è appunto una certa, insomma, è uno molto disinvolto. Ha definito Franceschini il vice disastro, perché il disastro sarebbe stato Veltroni e il vice di Veltroni il vice disastro. È uno così con una sua irriverenza, un giornalista un po' pazzo che io considero molto simpatico, Jeff Israeli, lo ha definito l'Obama italiano, che è naturalmente molto eccessivo. Però magari magari insomma, queste vittorie fuori dal quadro, fuori dal cerchio magico, diciamo, della politica controllabile e controllata, possono portare, mettere capo a qualcosa di interessante, di sensato. Lei non crede, Folli? Io penso che Renzi sia un personaggio che ha rotto effettivamente gli schemi un po' ingessati, no, della politica fiorentina, perché potrebbe essere un candidato trasversale. È stato eletto con una lista di centrosinistra, ma indubbiamente potrebbe tranquillamente incontrare il consenso anche di una parte dell'elettorato di centrodestra, quindi in qualche misura rappresenta già nella sua persona il superamento di una vecchia divisione che a Firenze è stata sempre molto, molto solida. Il fatto che vada a pregare sulla tomba di Lapira non significa che lui si ritrovi all'interno di uno schema che in realtà lui supera. Quindi questo è un po' meno vero per Del Bono a Bologna, per esempio, che mi sembra un personaggio diverso, più dentro il vecchio schema. Renzi rappresenta una rottura politica che non so quanto possa essere trasferibile sul piano nazionale in questo momento, però io continuo a pensare che il Partito Democratico debba decidere esattamente che cosa vuole essere, e queste elezioni dimostrano che c'è una frattura, quello che dicevamo prima, tra un partito del nord e un altro partito, sì, sono due cose diverse. Sì, la cosa che volevo dire, Meli, è che noi siamo un po' cinici e tendiamo a filtrare con grande scetticismo tutte le cose nuove che succedono. D'accordo, Renzi è criticabilissimo perché poi nelle sue performance televisive, nelle sue comparsate, nelle sue uscite, eccetera, ha fatto tante cose che possono essere giudicate leggere, non di peso, non... però è un ragazzotto che è entrato in politica e delegato a fare una carriera nell'ambito di un establishment, era presidente della provincia, ha fatto una sfida molto personale e l'ha vinta. E non è che succede molto spesso in Italia. In Italia gli outsider che vincono sono pochi. Ecco, ce n'è uno, super, Berlusconi, che domina la politica italiana da 20 anni. Ma poi ci sono pochi casi sotto. Meli, che pensa Berlusconi lei? Non era proprio un ragazzotto spiantato. No, ma era fuori dalla politica, sì, e non era in Mediobanca, che erano due cose molto importanti, erano i due centri del potere reale. Prego, Meli. Io quando la cosa che mi ha sorpreso, cioè la cosa che mi ha colpito subito di Renzi, è quello per cui ho pensato che poteva fare strada, è quando ho letto in un giornale dove veniva raccontato ovviamente come una presa in giro, come una cosa inconcepibile, che aveva partecipato, cercato di partecipare alla Ruota della Fortuna, che è un gioco che va su una delle reti Mediaset. Là ho trovato che quel personaggio, che era assolutamente veramente fuori dagli schemi snobbistici, ripetitivi del centro-sinistra, poteva avere una chance, diciamoci la verità, probabilmente con il candidato deciso dall'apparato Lapo Pistelli il PD avrebbe perso Firenze. L'ha vinta grazie al fatto che è arrivato un pazzo che dice delle cose sì, assolutamente naif, e invece grazie a lui ha vinto. Ovviamente cercheranno di ammazzarlo nel migliore, politicamente ovviamente, nel migliore dei casi, nel metabolizzarlo nel secondo. E tant'è che non si parla di Renzi, parlano della Serracchiani, che è un pollo di batteria ex PC. Ecco, la Melia è sempre una buona parola per tutti, pollo di batteria detto della Serracchiani. Ma vedo che Meli, Cesaretti, le interessa il fenomeno Renzi? Sì, lo trovo simpatico. No, anche perché, diciamo un'altra cosa, Renzi è un sindaco di Firenze anticomunista, una cosa strana, no? Perché lo stesso Lapira sì, era molto amato trasversalmente, perché era un democristiano, ma insomma andava a braccetto con gli operai. Sì, soprattutto perché è uno nel PD in cui le carriere e i posti si ottengono tutti per filiere cordate, che tutto sommato non c'ha un padrino e non ce l'ha avuto in questa campagna. Ovviamente lui era legato a Francesco Rutelli all'inizio, però insomma nella vicenda fiorentina è stato veramente solo, ha deciso da solo, ha deciso contro gli apparati e le cordate che erano già pronte a mettere in pista i loro candidati, e li ha sbaragliati allegramente. E è un personaggio allegro oltretutto, che non guasta, perché nel centro-sinistra è una dote abbastanza rara. Gli anglosassoni dicono che la politica deve essere anche fun, anche divertimento. Qui ce n'è molto di divertimento. A proposito, Gabriele da Pavia. Gabriele, lei su quella storia del cattolicesimo e della politica italiana nel momento dei grandi scandali sessuali, io volevo dire qualcosa. Io penso l'esatto contrario di Folli, cioè che il popolo italiano, proprio in quanto cattolico, perdona Berlusconi su queste sue cose. Invece non perdona la Bindi, che come ministro della famiglia, i primi atti che ha fatto sono stati Dico e quelle cose lì. Ho capito. Va bene, abbiamo finito il nostro tempo. Ah no, non abbiamo fatto finire il nostro tempo, dobbiamo arrivare a 57. Ah, sono felice, possiamo continuare. Allora sentiamo anche Aurelio da Milano. Dottor Ferrara, sì, io volevo mettere in risalto l'ipocrisia di tanta gente italiana, anche i giornalisti, perché io sono convinto che Berlusconi nel suo privato possa frequentare tutte le donne che vuole, però da qui a trovarcele in tutti i comuni, nelle province, nelle regioni, in Parlamento, non esageriamo adesso, non esageriamo. Cioè, non esagero perché è sotto. Ma no, da Dario ha preso 7 voti, guardi. Non... Ma anche se ne avesse preso uno, però l'ha messa lì nella lista di Bari, giusto? E questo è quello che mi scandalizza a me, che io non vorrei ritrovarmi la politica pieno di, fra parentesi, escort. Va bene, no? Beh sì, bisogna fare distinzione. Oggi Marcenaro in un corsivo stupendo dice: attenzione, io non sono un escort, sono una modella. Berri da Salerno. Berri da Salerno. Pronto, buongiorno. Sì. Vorrei dire che si parla che la figura di Berlusconi è uscita appannata di tutta questa storia, ma secondo me la figura che è uscita appannata più di tutto è la figura delle donne, ma soprattutto delle donne nella politica, perché per diventare politica bisogna passare per il letto degli uomini politici. Esce appannato in qualche modo, vuole essere un po' cattivo, anche la figura da Cafagna e da Presti Giacomo. Io sono straniero. No, non c'entrano niente, non c'entrano niente neanche nel pettegolezzo in questo caso, quindi non può dirlo, perché veramente sono completamente fuori da questa storia. Queste due donne sono fuori, non c'entrano con le cose originate dalla festa di compleanno di Casoria, i problemi del divorzio, eccetera. Mario da Milano. Ah, però buongiorno. Una battuta su Dario Franceschini e il PD. A me ricordano un reo confesso di omicidio che si aspettava la pena di morte, poi gli danno 30 anni e festeggia a Cannoli. E per quanto riguarda la bassa affluenza sul referendum... Ma perché le dice questo? Perché le dice questo? Cioè, in che perché senso? Perché grazie all'avvocato La Repubblica, che si è dimostrato migliore dell'avvocato Ghedini in questo caso, secondo me almeno 3, 4, 5 punti percentuali li hanno tolti al Presidente del Consiglio. Con questa campagna si ha un bel quindi dire, c'è stata un'erosione secondo lei? Per me sì, almeno 4-5 punti, cioè quel famoso 40%. Dove la vede? Prego? Ah, lei per la storia dell'Europea ancora torna sì, alla per storia della previsione. Per quanto riguarda il referendum, io mi riallaccio al recente sondaggio di Mannheimer, che lei conoscerà, in cui la parola politica cosa ispira agli italiani? Il 65% degli italiani alla parola politica gli viene prima in mente disgusto, poi rabbia. Quindi se lei, che ama le battaglie politicamente scorrette, si facesse promotore... No, io sono un innamorato della politica, però. Appunto. Io sono contro il qualunquismo. Il qualunquismo è un conformismo. Però agli italiani la parola è disgusto e rabbia. E gli italiani, pazienza, sono disgustati. Io no, io sono innamorato. Sono due atteggiamenti diversi. Mica posso stare nella corrente generale. Comunque, staremo a vedere. Disgustati o innamorati, noi qui abbiamo cercato con effetti diciamo alterni di tirare fuori appunto un senso logico integrale, unitario da ciò che sta avvenendo nelle urne, ed è francamente molto difficile, perché c'è l'elemento dell'irrazionale che pesa, che conta, mi pare molto molto in questo momento, diciamo, nella politica italiana. C'è un gioco di emozioni, di allusioni, di spiritosaggini o di cose grevi che però, diciamo, hanno poco a che fare con le normali notizie. Per esempio, non so se vi siete accorti del fatto che non esiste più la crisi economica, non se ne parla più. Eppure nel crollo dei crolli dei crolli, la crisi economica non fa più che il 29 sembra le folie bergère. Come? Dico, la crisi economica non fa vendere i giornali, le foto delle veline sì. No, non vorrei, diciamo, fare il menagramo, ma prego, prima di dare per finita, diciamo, no, ma finita, capito? Lo dico provocatoriamente, cioè, dico, improvvisamente quello che sembrava centrale è stato decentrato e marginalizzato. Ma è una scelta però dei giornali più che della crisi economica. Sì, non è colpa della crisi. Certo. No, io stavo parlando della crisi economica come notizia, non come realtà. Va bene, grazie a Maria Teresa Meli, grazie a Stefano Folli, a Laura Cesaretti e a Francesco Cundari. In redazione Franca Fossati e Gloria Guerrieri, in regia Paolo Corleoni e Giorgio Matellini, al GR poi Gianluca Nicoletti con Melo 2.0. grazie agli ascoltatori, a domani, baci.